di una comunità, di una città. E anche percorrerlo ogni tanto, condividerlo per trovare poi nuove prospettive, non è, come dire, un esercizio retorico, è proprio il modo di continuare a far vivere il senso di appartenenza civica a una comunità e soprattutto riempie di significato gli avvenimenti che avvengono all'interno della nostra città, perché sennò in qualche modo tutto passa e trascorre senza una grande consapevolezza di quello che è successo e di quello che poi arriverà a succedere. Quindi ripercorrere i luoghi ha un senso per chi li ha vissuti, ma guardate, ha soprattutto un senso per chi si appresta a vivere storie diverse, perché ti dà chiavi di lettura importante, perché ti ripropone il senso di una comunità che c'è e che va a cambiarsi, ma che in qualche modo si ribadisce a se stessa. Siccome mi ricordo la rototocalcografica, me la ricordo come sede, me la ricordo come immagine, so che cosa ha rappresentato per Cinisello, so che cosa ha rappresentato per la storia della politica Cinisello, in modo particolare del Partito Comunista, e so che cosa ha raccontato per l'amministrazione. Siamo in un altro mondo, siamo in un'altra storia, siamo proprio in un'altra fase. Però, rileggendo anche il ricordo di Enea Cerquetti, della visita di Longo, Longo è morto nel 1980 ed è venuto a Cinisello nel 78, giusto? Mentre Enea Cerquetti era sindaco, e c'è stato questo ricordo da parte di Cerquetti della presenza di Longo. Una presenza che è stata una presenza significativa, perché ormai Longo in quel periodo era già provato dalla malattia, ma ha avuto, come dire, un riconoscimento importante rispetto alla sua figura. Noi in questo periodo stiamo celebrando, stiamo ricordando Sandro Pertini per il secondo anno del Pertini, e oggi una figura come quella di Longo, figura che in qualche modo la loro vita rende, come dire, intoccabili. Non si può fare a meno che consegnargli un grande valore. Pertini per 18 anni di esilio, prigione, comunque persecuzioni, Longo per la sua grande impegno nella guerra civile in Francia come partigiano, capo delle Brigate Garibaldi, come uomo politico, come segretario di partito, figure di uno spessore morale, personale, che hanno dimostrato un tale sacrificio rispetto alle loro scelte che, caspita, nessuno può metterne in dubbio il valore e lo spessore. La loro storia li è dimostrare quanto valgono. Non hanno bisogno di continuare a ribadirli, ma hanno letto, studiato, capito ancora di più e in qualche modo riportati in una dimensione anche temporanea, perché comunque rafforzino il valore delle scelte individuali, il valore dello spessore individuale. E pensavo ai luoghi. Cinisello ha luoghi che hanno fatto parte della sua storia, della storia importante, che è stata anche la storia del movimento operaio, la storia del Partito Comunista, la storia di un'amministrazione che era tanto vicino alla storia e alla vicenda dei propri cittadini. Io devo dire, di Longo, da persona che è stata accompagnata dalla storia del Partito Comunista a fianco, quindi sono iscritta tardi al Partito Comunista, 20 giorni prima della Bolognina, però in qualche modo ce l'ho sempre avuta a fianco, nel senso che la mia storia è stata lì. Di Longo ricordo, come dire, le cose importanti, che erano quelle che un comunista sapeva, che era stato un segretario di partito importante, che aveva avuto questo legame con Togliatti, che era stato un uomo sulla cui integrità, sul cui valore nessuno metteva dubbio. E questo uomo è venuto a Cinisello e a Cinisello è stato ben accolto. E allora io oggi mi sono chiesta quali saranno tra 30 anni, 40 anni, i fatti e i luoghi che potranno ripercorrere lo stesso valore a Cinisello Balsamo. Allora questi uomini portavano di per sé un valore. Adesso è difficile trovare uomini che portino di per sé un valore. Ci vuole uomini che portano persone, che portano oltre se stesse anche quello che di importante hanno fatto. E quali saranno i luoghi che a Cinisello Balsamo segneranno i cambiamenti, segneranno le trasformazioni e segneranno l'importanza di quello che è successo? E oggi un pochettino me lo sono provato a chiedermi. Beh, io lo dico qui proprio anche per, come dire, la polemica che si sta innestando in questi giorni. Quello che segnerà la fase storica di questo periodo, è inutile che possiamo dircelo o non dircelo, può piacerci o non può piacerci, è la presenza importante di cittadini stranieri. Questo segna il grande cambiamento in questo periodo a Cinisello come in altre parti del mondo. Noi abbiamo ormai il 12%, 10% dei nostri cittadini che sono cittadini stranieri. E questa è una trasformazione per noi epocale. E allora quali saranno i luoghi che segneranno questa trasformazione? Sono i luoghi dove questo, come dire, intreccio culturale e multiculturale e multireligioso si sviluppa, le scuole, i quartieri particolari, i luoghi dove avvengono i riti collettivi. E quelli saranno in qualche modo, penso, ricordati attraverso le immagini come i luoghi che segnano la trasformazione importante che c'è stata in questi anni. Guardate, io sono certa, noi siamo di fronte a una fase epocale. Tra 40 anni noi saremo, come dire, non so come dire, forse un'altra razza. Siamo come se fossimo di fronte alle migrazioni dei popoli nel prima del Medioevo, come se fossimo in una sorta proprio di migrazione importantissima globale. E anche a Cinisello questo cambierà la comunità, cambierà la situazione, cambierà le persone, cambierà il mondo. Allora, io stamattina sono andata, Pier sorride, sono andata prima con un po' di perplessità, ma poi invece pensandoci no, con convinzione, sono andata alla prima festa del sacrificio che è stata fatta pubblicamente a Cinisello. La festa del sacrificio è una delle due feste importanti che i musulmani, le persone di fede musulmane, due feste importanti per loro, che vabbè, Ramadan è la festa del sacrificio, in cui anche loro, io che sono un'esperta di tutte le pratiche religiose per niente, in cui anche loro sostanzialmente celebrano il sacrificio di Abramo, in modo un po' diverso, poi richiamando altre cose, però è stata fatta pubblicamente, in un luogo pubblico, con un'autorizzazione, cosa che a Cinisello non era mai stata fatta. E allora io immagino che questo in un futuro possa essere un luogo e un fatto che possa in qualche modo cioè restare come uno dei momenti che ha dato il segno del cambiamento. E quindi allora, se i momenti importanti avvenivano dentro le fabbriche, con le persone importanti, oggi probabilmente i luoghi importanti, le persone importanti sono meno riconoscibili, più diffuse, ma in qualche modo più come dire, più diffusa all'interno di quello che è il contesto cittadino, ma per questo forse anche meno leggibili e meno identificabile. Tutto questo per dire che il senso di oggi, per quello che mi riguarda, non è solo la presentazione del libro, che nulla toglie, perché comunque Luigi Longo credo che non abbia sia la prima biografia che riguarda Fioletto, perché la prima biografia che riguarda Luigi Longo, che è un personaggio che ha avuto un valore importantissimo nella storia dell'Italia, e quindi che ben venga. Ma credo che sia importante presentare il libro qui in relazione a Cinisello, e Cerquetti in questo caso è qui a dimostrarvi in qualche modo non solo la testimonianza, non solo il ricordo, ma anche il valore di quel momento. Ma credo che sia soprattutto importante fare una riflessione su come ritornare sui luoghi, sul dare il senso degli avvenimenti e ripensarli in un'ottica presente e anche futura. Il ricordo e il ripercorrere fino a se stesso non ha senso. Occorre valorizzare ciò che è stato anche in forma fisica e personale, ripensando a quello che potrà essere per questa comunità. Quindi continuiamo anche con il centro di documentazione storica, continuiamo a riguardarli questi luoghi e queste persone, perché sono sicura che in futuro ci aiuteranno a leggere bene o perlomeno meglio i grandi cambiamenti che stiamo affrontando. Grazie mille Silvia Trezzi. A questo punto, dopo questo saluto che però ci ha aperto già diversi stimoli, entriamo un po' in quello che è il contenuto del libro. Io non ho presentato gli ospiti proprio perché appunto ci entriamo ora, e abbiamo con noi oggi Enea Cerquetti, che credo tutti voi presenti in sala già conoscete, perché sindaco di Cinisello Balsamo dal 70-79, insomma io non sono assolutamente degno di ricostruire la biografia, deputato del PC per diverse legislature, credo due, mi corregga se sbaglio, insomma quindi una persona che conosce in maniera profonda la storia di questa città e che ha vissuto quegli anni da protagonista. Luciana D'Ambra della Fondazione Lo Guercioli, che ci introdurrà in maniera proprio più specifica al libro e concluderà poi la presentazione l'autore del libro, Alexander Röbel, collaboratore dell'Università del Federico II di Napoli e anche della Fondazione Gramsci e studioso del movimento operaio e democratico italiano. Quindi per introdurre l'intervento di Enea Cerquetti, che appunto ci porta un po' piano piano ad allargare sempre più il quadro. Abbiamo cominciato con col sindaco attuale, facciamo un salto indietro nel tempo e appunto torniamo al sindaco di 40 anni fa, spero di dire giusto. E per introdurre il suo intervento però io vi mostro queste poche diapositive che però sono molto interessanti della visita di Luigi Longo a Cinisello Balsamo, visita che si è tenuta il 24 aprile del 1978 alla rotocalco grafica di Cinisello proprio per le celebrazioni del 25 aprile. Longo nel 1978 era già profondamente debilitato dalla malattia, sarebbe mancato nel 1980, e però come da più parti viene sottolineato ci ha sempre tenuto molto a mantenere il suo impegno fino all'ultimo, e quindi nel 78 partecipò a questa manifestazione in questa fabbrica cinisellese e abbiamo recuperato alcune foto che vi mostro. Oltre, come si vede in questa didascalia, oltre a Luigi Longo si riconoscono Enea Cerquetti, che è posto alla destra di Longo, giusto? Sì. Eccolo lì. Virginio Rognoni, che è la persona in piedi che sta parlando della Democrazia Cristiana, e Riccardo Terzi, il primo a destra, anche lui del Partito Comunista. Segretario era lui. Dico la verità, quando mi hanno inviato queste foto via mail ho avuto i brividi lungo la schiena, perché se penso alle assemblee in fabbrica, perché venivano tenute 30 anni fa, e alla condizione del movimento operaio e democratico di questo paese 30 anni fa ed oggi, mi sono venuti i brividi, dall'altro un po' intristito, però ho pensato che fare un'iniziativa del genere insomma poteva avere un senso, quindi mi sono un pochino più ripreso. E purtroppo non sono in grado di dirvi chi è la persona in piedi, se qualcuno in sala se lo ricorda. Allora benvenuto, Silvano Cavallotti. Ovviamente le persone che sono presenti in sala e che alla fine vorranno magari commentare anche loro con un ricordo in qualche modo, insomma, sono assolutamente gradite, quindi vi invito a farlo. E questa foto invece ritrae il consiglio di fabbrica della rotocalcografica, e abbiamo anche le persone, quindi Lanzani, vabbè poi potete vederlo, il terzo da destra in piedi in alto, Narciso Vaccari della sezione PC di fabbrica, era il direttore del personale della rotocalcografica. Chi? Lanzani. Camillo Longo, primo da sinistra in alto in piedi, Aldo Cigala, secondo da destra in alto, insomma vedete voi, insomma sono foto che fanno davvero un certo effetto. Qui non c'è Longo ritratto in questa foto, ma oltre a alcuni personaggi che già vi ho descritto, la cosa curiosa è che nascosto, da sinistra seconda fila, accanto a quello con la barba è Silvano Cavallotti. No, scusa, mi sono perso. L'autista di Longo, da Silvano Cavallotti, un po' nascosto. Silvano Cavallotti in seconda fila vicino a me, che è il ragazzo più giovane, sono. Quello con la barba. Quello con la barba? No. Quello in piedi con giubbotto. Quello accosciato dietro quello con la tuta. E dietro quello che ho io. Ah, sì, quello. Questo invece è l'articolo che Enea Cerquetti scrisse nel 1980, anche qui devo dire ho avuto un po' di brividi, perché leggere che il giornale con cui collaboro da 2 anni nel 1980 dedicava un articolo a Luigi Longo, insomma un po' di effetto lo fa, e questo è l'articolo che appunto ricordo che Enea Cerquetti scrisse dopo la morte di Longo. Per chi volesse eventualmente averne una copia, poi alla fine se me lo chiedete facciamo in modo di farvele avere. Questa è la parte finale dell'articolo, e queste le due foto che il giornale ospitò sempre risalenti a due anni prima, quindi è sempre una foto impossibile di fare. Esatto, sempre una foto. Quindi insomma, quello che questa non c'entra niente. E quindi insomma, dopo questa carrellata di immagini che insomma ci hanno dato anche la materialità di quella visita, io veramente con piacere lascio la parola a Denia Cerquetti per un ricordo di Luigi Longo. Allora, parliamo di Luigi Longo attraverso il libro. Longo scritto dal qui vicino, dal qui vicino autore, professor Poveri. Purtroppo io l'ho avuto soltanto ieri, sono riuscito a leggere le prime 100 pagine arrivando agli anni 30 e le ultime. Ci dovrà essere ulteriori due volumi per poter completare l'opera e dopo aver letto questo centinaio di pagine mi sono compiaciuto di poter ricordare che di avere assistito, di aver anzi fatto la presentazione qui a Milano presso la Federazione del PC del primo volume della storia del Partito Comunista di Paolo Spriano, che è una specie di monumento insomma, no, storiografico sul nostro partito. Adesso mi capita anche questa occasione. Contento di avere queste fortune, ognuno è contento di quello che gli pare. Di Longo io ricordo innanzitutto due facce pubbliche. La prima, che era confermato da questo incontro del 78, quello che mi avevano detto tanti compagni, cioè che Longo metteva soggezione solo con lo sguardo. E in effetti era uno di quei personaggi, anche in quell'occasione, era contorto per l'ictus che aveva avuto nell'espressione del viso, ma ancora si vedeva che metteva in soggezione. Qualcuno diceva fa paura, ma quello è un altro, è un discorso diverso. In realtà metteva soggezione di autorevolezza per la storia che aveva avuto, quelle cose che aveva fatto. C'erano altri come lui nel mondo antifascista di allora, come più poi Riccardo Bauer aveva due occhi terribili esattamente come loro, la gente era stata in carcere, aveva combattuto, aveva finalmente vinto, chissà se erano contenti o no di cosa era successo dopo che loro erano riusciti a riportare nella superficie della respirabilità il popolo italiano, respirabilità politica evidentemente, ma continuavano, quella era la loro personalità. La seconda questione esteriore di Longo riguarda la parola, parlava anche in quell'occasione, usava un suo linguaggio, è che invece di dire come si riempiva la bocca, in termini marxisti, la classe di qui, la classe di là, lui parlava sempre di povera gente, anzi, con l'inflessione piemontese che veniva imitata dai funzionari, da molti funzionari partiti, soprattutto quelli della scuola di Mosca, diceva la povera gente. Anche Togliatti parlava così, cioè con l'inflessione torinese e piemontese. E era una sua, non un modo di dire, ma era una scelta ideologica di non abusare, se vogliamo, di terminologie marxiste, diciamo così, durante i suoi discorsi, stare invece a un linguaggio terra terra. Dice, noi dovevamo lavorare, diceva lui, nel partito, per sollevare la povera gente. E questo suo atteggiamento voleva richiamare alla sobrietà del parlare, a non farla lunga con le citazioni che erano abusate in tutti quanti i nostri discorsi e di stare ai fatti. Il libro di Hobel comincia ovviamente facendo una biografia dagli anni giovanili, addirittura dall'infanzia di Longo, e io qui dentro trovo importante che finalmente parlando di una persona di quell'epoca lì, che è vissuto ai tempi della prima guerra mondiale, all'inizio di questo secolo, si parli della sua vita, della sua esperienza militare. Tra l'altro lui dai 20 anni ai 45 circa è sempre stato dentro a questioni militari, lì c'è bisogna pur dire che c'è un inizio e poi c'è un punto di arrivo. E si ricorda di Longo innanzitutto, giustamente, che non fu impegnato nella prima guerra mondiale perché era della classe 1900. La classe 1900 venne chiamata alle armi all'inizio del 1918, era pronta a giuramenti, primi giuramenti, il primo scaglione, era di marzo, quindi era il primo scaglione del 1900, e anche qui a Milano ho visto da altre parti che andò al giuramento la classe qui a Milano a giugno 18, non in tempo per essere impiegata, per sua fortuna, da nessuna parte, ma soltanto ebbe poi un servizio militare, chiamavano normale, in tempo anormale, quale fu il dopoguerra, della guerra mondiale. E a Longo toccò come esperienza anche di dover fare il corso allievi ufficiali, perché tutti gli studenti di scuola diplomatica, di scuola media superiore o che erano vicini all'ultimo anno erano obbligati erano mandati alle scuole alle scuole per ufficiali, anche se non l'avevano scelto loro. Per esempio Pertini, di cui si parla anche in questi giorni, che era di 3 anni più vecchio di Longo, essendo socialista per tutta la storia che c'era stata prima dell'atteggiamento dei socialisti sulla guerra, non fece nessuna domanda per diventare ufficiale, venne mandato egualmente, no? Lasciò la traccia che non aderiva, non sabotava, come era la linea del suo partito. Saragat invece, che era, adesso ci arrivo, anche lui, come Pertini, come quello riguarda l'età, andò e chiese volontariamente invece di fare il corso ufficiale, perché all'inizio della guerra non c'era ancora questo obbligo di separazione netta fra chi aveva studiato, ufficiali, e nella truppa chi non aveva studiato. E questa questione dell'essere Longo, alla fine aveva avuto il grado di sottotenente dell'esercito italiano e si fece la sua esperienza in questo senso, è stata una questione mitizzata anche all'interno del partito. Dice per forza lui aveva avuto quella esperienza e addirittura gli si dava un'esperienza di guerra che non aveva invece avuto nell'esercito italiano. L'esercito italiano aveva avuto solo lo schifo del clima cadornista che c'era ugualmente anche via Cadorna, c'era lo stesso il cadornismo, cioè una disciplina di tipo bestiale, di aggressione, di abuso continuo dei superiori nei confronti degli inferiori, che attizzarono in Longo la ribellione che si dice, spiega benissimo nel libro, dice durante il servizio militare o ancora verso la fine aderì alle correnti massimaliste del partito socialista, non esistendo ancora in quel momento, ma è una cosa di poco dopo, il partito comunista. E vale la pena di sottolineare questo per dire una cosa magari anche polemica, che nell'ambito del PC, lui diceva apertamente, io ero sottotenente, Togliatti l'aveva detto apertamente dalla sua esperienza militare, era andato, l'avevano chiamato, era più vecchio, un pochettino più vecchio di loro, a militare, aveva fatto il corso ufficiale anche lui, esattamente come loro, valeva anche per Togliatti quell'obbligo. La specializzazione di Longo era la fanteria, per Togliatti era invece i reparti di sanità, e Togliatti non divenne sottotenente, ma tenuto come congedato poi come sergente della sanità, perché nel momento del giuramento, dopo la fine del corso, ebbe una crisi per una appendicite fortissima e quindi non poté prestare nessun giuramento. E ci teneva però, nelle discussioni che faceva, a rimarcare sempre che i suoi giudizi sulle questioni di carattere militare, che erano così rilevanti per l'epoca e per l'indirizzo generale del partito in quel periodo, venivano anche da una riflessione, così, da un'esperienza, da una riflessione, chiamiamola teorica, di istruzione militare di base superiore che comunque egli aveva avuto. I discendenti invece hanno sempre teso a tacere, modificare, diminuire, pasticciare sulle testimonianze circa le loro esperienze militari. Per quello che posso dire io, dico che tutto il gruppo dirigente del PC che era in pista negli anni 80, 70, l'ultimo che c'era, quasi tutti erano stati sottotenenti, tacevano di esserlo stati, erano stati obbligati, la forma del servizio militare era quello per loro, perché quella norma era rimasta in vigore fino al 45. C'era una frattura tra un gruppo dirigente che ormai propendeva per le raccomandazioni affinché qualcuno della dirigenza della FIGC non facesse servizio militare, si sbracciava a richiedere questi interventi, e chi invece era scandalizzato di queste richieste e delle linee politiche della Federazione Giovanile in quel periodo, cioè anni 70 e inizio degli 80, perché Boldrini, Pecchioli, Longo, tutto il giro Ampi, evidentemente, riteneva essere stato doveroso, essere doveroso comunque fare servizio militare. E io ricordo che Longo ha detto: cosa chiede un segretario della FIGC di non andare a fare servizio militare? Dice: quando mai starà con i suoi coetanei e i suoi compagni? Questi non si laureano quando vanno all'università, non si diplomano se vivono fuori dalla scuola superiore e non vogliono andare a fare servizio militare. Quando, dove incontreranno i loro simili? E qualcuno ha così malignamente diceva: al biliardino. E queste erano, per dire, di fratture, di temperi, di atteggiamenti culturali di quel tempo. Longo era considerato un po' una quintessenza dell'esperienza del partito per la formazione dei giovani, perché era stato il primo segretario della Federazione Giovanile Comunista a livello italiano, lo era stato a livello internazionale, nell'ambito dell'internazionale, sempre attento a questo settore. E ricordo che per questa sua esperienza ci fu un dibattito molto forte proprio qui a Milano e a Bologna, quando nel 68, o poco prima del 68, già c'erano le avvisaglie del 68 e del movimento studentesco, e si pose il problema per i comunisti di come stare nel movimento studentesco, quel suo movimento che è rinato a quell'epoca lì. E ci fu, allora era, facciamo nome, era Occhetto in quel caso lì, che propose di che i comunisti stessero sciolti del movimento. Non sto a seguire il ragionamento, la proposta sua era questa. La proposta che facevamo a Milano e a Bologna invece contro la FIGC nazionale era di stare organizzati nel movimento, se no chi conquisti, come indirizzi il movimento, dove lo vuoi portare, se stai sciolto segui chi si autoproclama oppure piglia più applausi quel giorno lì in un'assemblea di tipo anarcoide o segui qualcos'altro. E a dirimere la questione alla fine intervenne Longo dicendo che non si poteva neanche porre in discussione che la linea da seguire era quella di stare organizzati nel movimento, in ogni movimento i comunisti secondo lui dovevano stare organizzati, e infatti qui a Milano oltre che a Bologna si fece la sezione universitaria comunista. Questo per dire che dalla esperienza di Longo venivano fuori queste cose, come vennero fuori nel 78, eravamo quando lui venne qui, eravamo già in piena discussione e problematica relativa al governo in cui il Partito Comunista non doveva entrare, doveva stare lì sul limitare della porta. Dentro. E però venne costruito con socialisti e democristiani un programma di governo che rinnovò particolarmente il settore che stava più a cuore in quel periodo lì a un uomo come Longo, cioè quello della legislazione sulle forze armate italiane, visto che la discriminante era sì o no alla NATO. Anche da parte del Partito Comunista Italiano. Nel 75 Longo portò il partito a dire accettiamo la realtà per cui siamo lì dentro e ci restiamo. E però con delle riforme essenziali che ricordo così furono innanzitutto la legge sulla disciplina militare che è di quegli anni lì, e per il lavoro tutto quanto di Petioli, quindi uno delle squadre, diciamo così, della squadra militare di Longo, che era sempre gravitata intorno a Longo, e in più di ammodernamento anche delle forze armate, essendo Longo uno che non avrebbe mai accettato posizioni di disarmo unilaterale del nostro paese, così come non l'accettava Boldrini, lui è chiaro che non è, dava degli ordini che gli altri seguivano, aveva un gruppo di esperti, Boldrini, tutto il giro dei deputati dell'Ampi, via dicendo, con alla testa Pecchioni, in quel caso che dirigeva la sezione dei problemi dello Stato, che arrivarono a fare determinate riforme che dovevano portare poi a questa dovevano poi sboccare più facilmente dopo il periodo della solidarietà, dei governi di solidarietà nazionale, con un ingresso del Partito Comunista nel governo. Lì c'è, lì c'era Rognoni nella fotografia che avete visto prima, che tra l'altro fu qui a Cinisello a comizio, c'eravamo io e lui, quando Moro venne rapito, non solo quando Moro venne ucciso, ma quando venne rapito, e era uno di testimonia dei rapporti che si erano già stabiliti nel 78, il Partito Comunista mica era al governo, ma arriva ministro nella fabbrica, il poi ministro, non in quel momento lì, a discutere delle tematiche della strategia della tensione, della provocazione, del terrorismo che occorreva fronteggiare assolutamente in quel momento. Voglio chiudere ricordando al professor Hobel di valutare che cosa si diceva nel partito su Longo. Io ricordo che Longo era dato anche e soprattutto come un organizzatore, anche perché aveva ricoperto quei ruoli, e in quei ruoli era stato, aveva avuto successi rilevanti. Il Partito Comunista era un modello di organizzazione, era un modello di successo anche nella stessa. Faceva le tessere. Come? Faceva le tessere. Certo, faceva le tessere e faceva le mobilitazioni della gente. Garantiva l'autofinanziamento al partito, perché la storia dell'oro di Mosca, insomma, c'era venuto su anche lui, perché quando nel 68 telefonò a mezzanotte di un giorno in cui eravamo tutti mobilitati in federazione, perché c'era l'intervento in Cecoslovacchia a Praga, disse: propongo di condannare l'intervento. Tutti, benissimo, siamo tutti d'accordo, per fortuna si condanna l'intervento, perché si ricordava cos'era successo nel 56. E aggiunse: questo mese non pagheremo gli stipendi. E infatti non pagheranno gli stipendi. Dopo, nel giro di un mese cercarono, io non c'entravo con quel tipo lì di problemi, ricercarono i mezzi per poter andare avanti, visto il radicamento che avevamo fra la gente. Ma Longo organizzatore è quello anche che ha portato il nostro partito a vivere e a mettere in pratica il testamento di Togliatti. Il testamento di Togliatti diceva, nel 64 lo pubblicò immediatamente lui, il memoriale di Yalta, e togliattianamente tenne conto del fatto che quando un mito si comincia a sgretolare nella testa della gente, è quello il momento di andare a intervenire, a modificare, non prima. Se uno lo fa, attacca un mito, nel momento in cui il mito è mito, viene travolto. Era l'ora di cominciare a parlare in qualche modo, e si arrivò, visto che la situazione internazionale era molto, nell'ambito del mondo comunista, era molto frantumata, litigante e contrastata, e di orientamenti plurinazionali, si arrivò a valorizzare lì dentro la posizione del Partito Comunista, e si arrivò a cominciare a una rotta di distacco critico, che doveva essere un distacco critico, non avversario, un distacco critico, che avrebbe dovuto segnare la indipendenza del Partito Comunista. Così non era stato, secondo l'elezione Togliattiano, in un altro periodo, credo, quando Longo fa tutta l'esperienza con Togliatti della guerra di Spagna. Togliatti solamente politica e lui anche lui militare soprattutto. Quando vengono via tutte e due, e si prepara la svolta di Salerno per quello che riguarda gli italiani, bisogna meditare sempre, e chiudo, su quello che fu un pseudonimo di quel periodo messo in giro a Togliatti. Togliatti era lo specialista del darsi degli pseudonimi che avevano un significato politico e culturale molto grosso, perché gigioneggiava con la cultura. E si chiama in alcuni articoli Roderigo di Castiglia. Roderigo di Castiglia era stato l'ultimo re spagnolo a doversi ritirare, soccombere alla fine, nascondersi sul Picos d'Europa in montagna, nelle Asturie, per non resistere più, non essere più capace di resistere all'invasione araba. E un altro re di Asturie, Roderigo di Castiglia, 500 anni dopo, era stato il primo a ricominciare la Reconquista. E con questa citazione, per chi ci voglia andare a vedere cosa diavolo volesse dire, c'è una speranza nel nome che si era dato Togliatti, di essere stato, sì, sono stato sconfitto, sono scappato in aeroplano dalla Spagna alla Nord Africa, poi da lì è andato a finire in Francia, e dalla Francia è tornare in Unione Sovietica. Vuole essere quello, sì, ho perso, ma vuole essere il primo a ricominciare, no? Dopo la sconfitta epocale patita in Francia dai comunisti. E il giorno in cui ritorna in Italia, poco prima, mette in giro la famosa lettera che gli è stata rinfacciata in termini scandalistici, perché c'era chi proponeva all'interno del partito di andare a lavorare nei campi di prigionia per fare il lavaggio del cervello, dare la persuasione critica, se vogliamo, la riflessione critica ai prigionieri italiani dell'Armir, detenuti dai russi, dai sovietici nei loro campi di concentramento, e lui risponde che quella non era la funzione che bisognava svolgere in quel momento lì, lasciamo i prigionieri, i poveretti, al loro destino. D'altra parte lui veniva da quelli della prima guerra mondiale, dove si erano abituati a considerare le morti e i feriti, i prigionieri, a centinaia di migliaia. E invece ritorniamo al più presto possibile in Italia per fare in modo che gli italiani si cerchino di liberarsi da soli, usando però dell'intervento americano come uno strumento liberatore, veramente. Salutare gli americani come liberatori, fare la propria parte di riscatto e ricominciare quindi quella famosa lotta del secondo Roderigo di Castiglia, per mandare via l'invasione moresca, che dicevano quelli dei fascisti. Beh, di tutto questo ricordo De Longo era una linea, in quel caso lì, suggerita anche da Stalin, quella di andare a fare il governo con il governo Badoglio, con il re, no? Per l'unità antifascista con cui è stata condotto il gran finale della guerra. E aveva detto anche: non facciamo come in Spagna, bisogna non fare come in Spagna. Questa era la linea del ritornare in Italia, cioè no alle lotte fra partiti della sinistra, no ammazzarsi fra le sette che ne erano derivate, sette ideologiche, ma fare quello che poi dopo è stato fatto, cioè ricercare sempre l'unità. Quindi l'esperienza spagnola, anche di Longo sapeva bene cosa vuol dire non facciamo come in Spagna, e Longo era il capo del centro, diciamo così, in territorio nemico, nord Italia, e Togliatti invece si era messo giù dalla sede del governo verso quello di Salerno. Ho concluso dicendo che questi personaggi, e adesso questo libro che ne parla, hanno un rilievo enorme in sé, e soprattutto hanno rilievo perché attraverso la loro vita, lo dice chiaramente il professor Robert, c'è la storia del partito, cioè la storia di Longo non era. Si può identificare benissimo con la storia del partito e della sua azione politica, esattamente con lo stesso discorso aveva fatto Spriano con il suo di libro, facendo la storia del PCI, parlerò di tanti, però facendo la storia, se avessero fatto la storia di Togliatti, avrebbero fatto la stessa cosa. E lo stesso modo di fare storia è anche quello di De Felice, fa la storia di Mussolini, in effetti fa la storia d'Italia nel periodo fascista. Quindi il merito di queste opere biografiche è questo. Poi che purtroppo ce ne siano poche in giro è un altro discorso, anche perché qui chiudo proprio davvero, non do più fastidio dopo a nessuno. Si lamenta Open a un certo punto dicendo: ma non capisco perché questi capi comunisti si siano liquefatti senza aversi lasciato la storia della loro esperienza attraverso un'autobiografia o qualcosa d'altro. C'è qualcuno che meritoriamente l'ha fatto Napolitano, su imitazione di Amendola, è vero, l'ha fatto Napolitano, l'ha fatto Pecchioli, l'ha fatto tanti altri, l'ha fatto addirittura anche Lucio Magni, l'ha fatto la Rossanda, benissimo. Ecco, dice perché non l'hanno fatto. È perché questi probabilmente sapevano resistere alla delusione. Gli altri, ognuno, mica tutti dobbiamo essere uguali, no? Non hanno saputo resistere alla delusione di come sono finite le cose. E allora bisogna, viva la razionalità che può entrare da un autore terzo, come nel caso suo, che mette in evidenza cosa ha fatto di bene, di utile questo qui, per esempio, anche se non era in grado di parlarne lui o preferiva magari addirittura tacere. Grazie davvero a Enea Cerquetti, che magari torneremo a coinvolgere alla fine del giro di interventi. Salutiamo intanto il sindaco che va, ringraziamo di nuovo e allarghiamo ancora di più lo sguardo. L'intervento di Cerquetti è stato davvero perfetto, direi, per allargare sempre di più, come dicevo prima, lo sguardo rispetto al libro, e quindi io lascerei la parola a Luciana D'Ambra della Fondazione Leo Quercioli, che ci introdurrà ancora di più nel libro. Di solito alle presentazioni dei libri si parla poco dei libri, perché lo scopo è farli leggere, per cui speriamo che poi voi vogliate leggerlo, però insomma è un libro molto denso, molto ricco di contenuti, ricchissimo di documenti. La ricerca del professor Obel è stata davvero poderosa, per quanto poi il libro non sia come magari l'opera di Spriano, che invece occupa molti più volumi, però insomma è un'opera molto densa, e quindi Luciana D'Ambra ci aiuterà un po' a cominciare ad orientarci in questo libro. Grazie. Io prima di tutto però volevo esprimere il fatto che questi sono giorni di festa. Sono giorni di festa per la fondazione, per le fondazioni. Spesso le fondazioni vengono, la cronaca di questi giorni, insomma, vengono menzionate, vengono citate solo come presunta cassaforte da mettere a disposizione, oppure come delle teche piene di polvere, anzi con polvere all'esterno e ripiene di oggetti piuttosto che di documenti, ma a volte anche di persone. Come dire, polverose e inutili. Quello che invece questa iniziativa delle Notti Rosse e tutte le manifestazioni, gli incontri che si stanno svolgendo in questi giorni e anche la presentazione nella quale siamo tutti coinvolti, vuole invece esprimere il senso che le fondazioni non sono appunto una teca chiusa e impolverata, ma sono uno straordinario vettore di vita, di esperienze del passato, di luoghi, di persone, come diceva Siria, come diceva Cerquetti, insomma chi mi ha preceduto, e come emerge in maniera decisiva, significativa, sensibile dal libro di Alex. La storia è straordinaria, la storia come viene raccontata in questo testo, come ce l'ha raccontata Cerquetti, è straordinaria perché istituisce e ci fa scoprire ponti, ci fa scoprire connessioni fra le persone, fra i luoghi e tra i tempi. Oggi si parla tanto di cambiamento, c'è la tentazione di confinare in un angolo tutto quello che è stato. Questi libri, queste esperienze ci dimostrano invece che noi siamo fatti di queste persone, la nostra vita di adesso passa attraverso la storia che viene raccontata in queste pagine e in altre pagine. Altra connessione tra la storia e tra la fondazione ha due vocazioni fondamentali, due vocazioni principali. Una è quella di tutelare e valorizzare le esperienze di socialità, le esperienze di solidarietà che avvengono sui territori, e l'altra vocazione è quella invece della formazione. La fondazione organizza da sempre, da anni, corsi di formazione, anche questi non impolverati e accademici, che diciamo restano confinati e il cui ruolo termina nel momento in cui i partecipanti escono dalla stanza, dall'aula dove si svolgono i corsi, ma il valore è quello di aiutare le persone che partecipano appunto ai corsi di formazione nella loro vita di amministratori soprattutto, e quindi è quello di far circolare, poi istituire e far circolare quelle che oggi vengono chiamate le buone pratiche, che non sono solo buone pratiche formali, ma che poi si impattano nella vita dei cittadini e delle comunità, come ci spiegava, ci raccontava Siria. Lascerò poi ad Alex raccontare i punti dello straordinario percorso della vita di Luigi Longo, che coincide con 50 anni di vita, che dire decisiva è retorico, è poco ed è banale nella storia, non solo d'Italia, ma nella storia d'Europa, nella storia internazionale, dalla sua esperienza nella Prima Guerra Mondiale fino alla liberazione, alla fondazione della nostra Repubblica. Io volevo fare due brevi flash su due aspetti che mi hanno colpito in particolare, di straordinaria attualità. Uno è quello della non solo attenzione che Longo ha avuto tra i giovani, ma non dimentichiamoci che era giovanissimo quando diventò dirigente politico, era giovanissimo quando fece delle esperienze all'estero, a Mosca, in Francia, e proprio oggi che ci interroghiamo in maniera anche drammatica sul presente, sul futuro dei nostri giovani, pensare appunto come una figura come Luigi Longo per questa straordinaria, incredibile esperienza da giovane tra i giovani, non solo deve farci riflettere, ma chissà, potrebbe anche farci insomma trovare degli stimoli e delle forme per incoraggiare i giovani della nostra comunità, delle nostre generazioni. E altra caratteristica della vita di Longo che mi ha colpito in particolare, io lavoro in una casa editrice, è l'attenzione che ebbe per la comunicazione, oltre alla incredibile attività pubblicistica che oggi a noi basta schiacciare un tasto e accendiamo un tablet, accendiamo un computer e siamo connessi con tutto quello che sta accadendo, ed è questione di qualche secondo far arrivare o conoscere quello che sta accadendo a distanze siderali da noi. In quel tempo invece bisognava prendere carta, penna, scrivere a mano e trasmettere in tempi diciamo relativamente brevi, o comunque insomma i più brevi per quei tempi, l'esperienza che si stava avendo. Sandro ci descrive benissimo questi carteggi fitti e anche tempestivi appunto e rapidi. Longo non si sottrasse mai alla discussione. E accompagno questo con un'attività pubblicistica, anche quella incredibile per l'epoca, fondò numerosissimi giornali di vario tipo e genere, ebbe un'attenzione per la comunicazione e l'attività pubblicistica anche nella guerra di Spagna, realizzò anche, adesso ci fa forse un po' sorridere, ma per quei tempi fu realizzato un film addirittura sull'esperienza delle brigate che combatterono nella guerra civile di Spagna. E questi elementi appunto ci riportano come dire, non solo spettatori, ma ci sembra quasi di partecipare delle vicende che vengono con dettaglio e puntualità raccontate nelle pagine di questo libro. E come dicevo, ci fanno essere un nodo di questa connessione di persone, eventi, tempi e luoghi che hanno costruito quello che noi siamo oggi, quelle che esperienze politiche di vita siamo oggi. Un'ultima cosa, una dei temi di dibattito di questi tempi è quello dei padri. Siamo una società senza padri. Tra virgolette, padri sono necessari, sono utili, oppure dobbiamo smarcarci da loro, oppure siamo così proprio perché non ce li abbiamo. Non lo so, non ho l'ambizione, neanche la competenza e la conoscenza per rispondere a questa domanda. Credo però, come gli interventi che mi hanno preceduto dimostrano, che sicuramente se veniamo a conoscenza delle vite di questi personaggi, oggi parliamo di Ronco, poi c'è la mostra di Bertini, quindi sono per citare quelli più vicini alla nostra giornata, sicuramente cresciamo e siamo più ricchi di quello che eravamo prima di entrare in contatto con queste esperienze. Grazie. E quindi non mi resta che a questo punto lasciare il microfono all'autore del libro, che, come ha accennato anche Cerquetti, invitiamo a proseguire, nel senso che appunto il libro si occupa del periodo 40-45, arriva fino alla Resistenza, ed è la prima, come dire, opera completa sulla vita di Longo che è stata pubblicata, come sottolinea anche l'introduzione di Agosti, che insomma pone tutta una serie di riflessioni. Quindi l'auspicio è che il rapporto con la Fondazione Luigi Longo possa essere prezioso per l'autore, e non dico molto e lascio lui la parola anche magari in relazione a quanto ha detto Cerquetti, a quanto ha detto Luciano, insomma, alcuni temi sono già usciti. Dico solo che, ripeto, il libro è veramente densissimo di una storia veramente strapiena di avvenimenti che attraversa tutta la prima parte del Novecento, che è una storia appunto straordinaria che ancora deve essere presa veramente in mano a pieno dagli storici. Qui cambio un po' veste, faccio un po' il collaboratore universitario che faccio, e veramente il Novecento ci pone ancora dei temi, dei quesiti enormi, e il libro di Goebbels, come dire, pone tantissimi di questi temi, così come li pone la vita di Luigi Longo. E quindi, come dire, chiedo un commento al suo libro, sul suo libro all'autore, chiedendogli anche che cosa gli ha detto un po' Luigi Longo mentre lo conosceva, mentre andava in cerca della sua vita nelle carceri, nelle varie fondazioni. Insomma, si crea sempre un rapporto tra l'autore e il personaggio che bisogna essere bravi a gestire, perché da un lato si rischia di scadere nella geografia, di farsi affascinare dal personaggio, quindi di essere eccessivamente agiografici, poi si mitizza. e però dall'altra parte invece appunto il giusto distacco è difficile da mantenere. Quindi gli chiedo anche un po' come ha gestito questo rapporto e che cosa gli ha raccontato Luigi Longo di un Novecento tutto da scoprire. Innanzitutto grazie, devo fare molti ringraziamenti intanto alla rete delle fondazioni che ha promosso le tante iniziative di questa Notte Rossa e in particolare alla Fondazione Guercioli, che diciamo, è una delle organizzatrici dell'iniziativa di oggi, e alla Fondazione Longo, che fa parte della stessa rete che appunto ha sostenuto e finanziato la ricerca, ai relatori che sono intervenuti, al sindaco, all'ex sindaco Nea Cerquetti, a Luciana D'Ambra, a Martino del laboratorio Lassus, al centro Pertini che ci ospita e a tutti voi che state seguendo con tanta attenzione questa discussione. Diciamo aver affrontato la biografia, almeno la prima parte della biografia di un personaggio così complesso, che ha avuto una vita così straordinaria, così avventurosa, così piena anche di responsabilità, naturalmente non è stato facile, è stato però anche entusiasmante, anche proprio partendo dal periodo storico che appunto viene trattato in questo libro, appunto dalla prima parte della biografia di Longo, il periodo tra le due guerre. Questa generazione di cui fa parte Luigi Longo, di giovani nati nel 1900 e avvicinatisi alla politica, al movimento socialista, anche sull'onda della rivoluzione d'ottobre, poi del biennio rosso, tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia, e quindi con una prospettiva rivoluzionaria, la prospettiva che avevano allora, è una generazione che poi nel giro di pochi mesi, dopo la nascita del Partito Comunista nel gennaio 21, dopo pochi mesi deve fare i conti con un contesto che è completamente cambiato, un contesto di sconfitta, un contesto di arretramento, e il contesto in cui il fascismo prima si è imposto attraverso lo squadrismo e poi è arrivato proprio alla presa del potere. Quindi in qualche modo si trovano questi dirigenti, quelli più esperti, e questi giovanissimi dirigenti, appunto all'epoca Longo aveva 22 anni, a dover fare i conti con questa situazione, che quindi non era una situazione affatto facile. Noi abbiamo, giustamente, i relatori hanno sottolineato gli aspetti per certi versi eroici, appunto anche entusiasmanti di questa vita e di questo percorso biografico, però questo percorso biografico si svolge in un contesto che non è assolutamente un contesto favorevole, un contesto positivo, è un contesto di sconfitta, è un contesto di arretramento. Che cosa dà a questi dirigenti, e compresi quelli più giovani, la forza per resistere e anche per andare avanti? Io credo che una cosa che emerge abbastanza chiaramente è la fiducia nella storia che aveva quel gruppo dirigente, da quelli proprio di più salda formazione storicistica a quelli più giovani, che però vivevano questo stesso clima culturale, e quindi la loro azione è un'azione che viene concepita come azione quotidiana, giorno per giorno, il lavoro minuto che diciamo è il lavoro della politica, però era già un lavoro inteso e vissuto nella storia. Non a caso noi abbiamo i documenti verbali di questi gruppi dirigenti che, nelle condizioni della clandestinità, dell'esilio, cambiando più volte paese che scarpe, come diceva Brecht, hanno però in quelle condizioni difficilissime verbalizzato le loro riunioni, le hanno conservate, le hanno archiviate, perché in qualche modo avevano la consapevolezza di agire nella storia, che quindi le cose sarebbero cambiate. E quindi nelle discussioni che ha il gruppo dirigente questa consapevolezza emerge, e il ruolo di Longo è fondamentale anche in questo aspetto. Io vorrei toccare solo tre punti e cercherò di farlo rapidamente, cioè il ruolo di Longo nell'organizzazione, nell'elaborazione della linea politica e sul terreno della comunicazione che veniva citato prima. Intanto l'organizzazione. Quel gruppo dirigente si rende conto che se non vuole sparire, se non vuole che il fascismo riesca veramente a sradicare l'organizzazione del movimento operaio, pur nelle condizioni della clandestinità, deve mantenere una rete organizzativa e quindi lo fa dal centro estero, quindi dalla Svizzera, poi da Parigi, ma lo fa anche con un'azione forte e capillare all'interno del paese, attraverso le cellule clandestine del partito, le cellule sindacali, i comitati di villaggio, i comitati di donne, i gruppi giovanili, tutte le organizzazioni anche collaterali che vengono tenute in vita e per certi versi addirittura rivitalizzate negli anni dell'attività clandestina. E poi lo fa con la grande intuizione che atto gli atti ma che Longo sviluppa con grande abilità, anche agendo nelle organizzazioni di massa del regime fascista, quindi nei sindacati fascisti, nei dopolavoro, quindi non perdendo mai il contatto con i lavoratori, con le masse lavoratrici, con la povera gente che veniva citata prima. Quindi il grande ruolo di Longo nel contribuire a tenere in piedi questo tessuto organizzativo. Longo sarà responsabile dell'organizzazione dopo aver spinto molto assieme a Secchia per la svolta, la famosa svolta del 29, che è appunto quella che tende a riportare fortemente in Italia il centro di gravità del partito, sia pure nelle condizioni di un partito clandestino. Questa attenzione, questo lavorio organizzativo costante, quotidiano, naturalmente non si dà senza una linea politica e una strategia politica. Diciamo, tutti lo sanno che l'organizzazione senza politica non marcia e viceversa la politica non può marciare senza organizzazione. E allora questo gruppo dirigente discute molto in quegli anni, ma sono discussioni non sterili, non accademiche, discussioni che servivano alla lotta politica, discute molto di come resistere al fascismo ormai al potere, ma anche di come batterlo e anche della successione al fascismo, anche di che cosa sarebbe arrivato dopo il fascismo. E qui c'è un dibattito molto interessante, anche con una dialettica poi particolare tra Longo e Togliatti, e a volte con dei ribaltamenti addirittura di posizioni, perché il PC per alcuni anni è attestato sulla linea che Gramsci aveva portato avanti nel periodo della crisi Matteotti, che era la linea dell'assemblea repubblicana costituente sulla base dei comitati operai e contadini. Questa era, diciamo, la formula canonica, ossia si diceva: noi vogliamo superare, abbattere il fascismo, non però per fare una rivoluzione socialista, ma per chiamare il popolo italiano a un'assemblea costituente repubblicana, quindi sicuramente abbattere la monarchia, decidere una nuova forma di potere. Sulla base dei comitati operai e contadini, questa seconda parte della formula, diciamo, era quella che la legava all'esperienza sovietista, ai consigli operai e contadini. Questa formula così, diciamo, complessa, serviva ai comunisti a tenere insieme nella battaglia, a non essere soli nella battaglia antifascista, perché assemblea repubblicana costituente è una formula nella quale si potevano riconoscere anche i socialisti, i repubblicani, i liberali più avanzati, i cattolici, quindi quelle forze antifasciste che nel periodo della crisi Matteotti sembrano riprendere forza. Poi, come è noto, le cose andarono come andarono, la proposta di sciopero generale dei comunisti non venne accolta, idem per quanto riguarda l'antiparlamento, e queste forze pian piano, quando il fascismo poi si organizzò come regime, furono sottoposte a una sorta di liquefazione, finirono quasi tutti all'estero, in esilio, i gruppi dirigenti, la stessa CGIL fu sciolta e ricostituita dai comunisti, e però il Partito Comunista rimase con questa parola d'ordine dell'Assemblea Repubblicana Costituente. Longo e Secchia, che all'epoca erano chiamati i giovani, alla fine degli anni 20 cominciano a polemizzare con questa parola d'ordine, che invece è difesa da Togliatti e da Ruggero Greco, e fanno un ragionamento che è molto semplice. Dicono: noi abbiamo portato avanti questa parola d'ordine e questa prospettiva per costruire una unità antifascista con le altre forze, ma queste forze oggi non ci sono più, e quindi è inutile che noi insistiamo con questa parola d'ordine che i lavoratori fanno anche fatica a capire. Diciamo direttamente che vogliamo la rivoluzione socialista che abbatta il fascismo e un governo operaio e contadino. E c'è un dibattito molto, molto vivace, in cui Togliatti dice ai giovani: guardate che queste forze politiche che ora non vedete nel paese, però sono delle tradizioni politiche che poi riemergeranno domani. diciamo che forse in quel frangente Togliatti vedeva più lungo, aveva la vista più lunga rispetto ai giovani, rispetto a Longo e Secchia, però effettivamente quella parola d'ordine viene abbandonata appunto con la svolta del 29 e il partito ha un'accentuazione classista della sua strategia, che però serve anche a rafforzare il radicamento nella classe operaia e in generale nel mondo del lavoro, dei lavoratori salariati. Qualche anno dopo, siamo ormai negli anni 30 e diciamo è cambiato il contesto, Longo si trova a Parigi, non è più responsabile dell'organizzazione e Togliatti è in Unione Sovietica. Qualche anno dopo si riapre il discorso su che cosa abbatterà il fascismo: una rivoluzione socialista guidata dalla classe operaia del suo partito oppure un processo più articolato, e si comincia a parlare di rivoluzione popolare antifascista. Quindi una rivoluzione democratica, popolare, che abbatta il fascismo ma che non abbia immediatamente l'obiettivo socialista. Su questa prospettiva adesso è Longo che a Parigi ha cominciato a ritessere i contatti con le altre forze antifasciste, con Pietro Nenni, con Rosselli di Giustizia e Libertà. Ora è Longo che è invece su questa linea di unità antifascista ed è Togliatti che da Musca gli scrive, cioè guarda, vai cauto su questa linea, non ti fidare, gli scrive, dei tipi di Parigi. Quindi c'è una dialettica tra i gruppi dirigenti e in particolare tra questi due grandi dirigenti che è molto interessante, che dipende anche dai contesti in cui operavano. Ovviamente Longo vive nella Parigi che, dei fronti popolari, dell'unità antifascista e dell'unità tra le forze del movimento operaio che sta vincendo, e quindi chiaramente è molto suggestionato da questo modello. Togliatti in quel momento si trova in Unione Sovietica e ha una visione diversa. Ma tutto questo per dire che questa discussione, che sembra un po' astratta, un po' appunto slegata dalla realtà, invece è molto all'interno delle vicende reali, perché appunto questa politica di unità antifascista poi diventa qualcosa di molto concreto nella Francia dei fronti popolari e della ritrovata unità d'azione tra comunisti e socialisti, e Longo ha un ruolo nel fare sì che questa unità d'azione tra comunisti e socialisti, che inizialmente era stata tra i francesi, si trasferisca e diventi unità tra comunisti e socialisti anche italiani, e quindi è lui a guidare la delegazione del PC che incontra Nenni e che poi approda al patto di unità d'azione. Ma soprattutto questa diciamo prospettiva che mantiene in qualche modo l'iniziativa del movimento operaio, quindi in cui il movimento operaio non è alla coda degli avvenimenti, anzi se possibile è alla testa degli avvenimenti, rifiuta l'attendismo delle altre forze, è disposto a fare il primo passo, ma facendo in modo che dopo il primo passo siano poi anche le altre forze a seguire. Quindi si trova in qualche modo una sintesi tra la linea più classista e la linea di unità antifascista, e la si trova nella pratica, appunto nella politica di fronte popolare di unità antifascista, prima in Francia e poi in Spagna. E in Spagna, in entrambi questi contesti, Longo è protagonista, ha un ruolo di protagonista, appunto, dicevo, dei colloqui di Parigi nel 34-35, e poi in Spagna nel 36 Longo ha l'occasione per attuare questa linea, per praticarla. Quindi accorrono in Spagna combattenti comunisti, c'è cioè il grande impegno dell'Internazionale Comunista, il telegramma di Stalin che impegna l'Unione Sovietica e il Comintern a favore della Spagna repubblicana, ma accorrono anche altre forze di Giustizia e Libertà, gli anarchici, i repubblicani. E Longo riesce a tenere insieme i due aspetti, quindi il ruolo organizzato dei comunisti, che però non si isolano, contribuiscono a costituire delle brigate internazionali e in particolare quelle italiane, le brigate e il battaglione Garibaldi, dove però assieme ai comunisti ci sono i socialisti, ci sono i repubblicani, ci sono le altre forze, anche con ruoli dirigenti. Pacciardi per esempio era uno dei massimi dirigenti del battaglione Garibaldi prima di andare via dalla Spagna, perché ritiene che la guerra ormai vada verso la sconfitta. Quindi organizzazione nel paese, elaborazione della linea politica in modo non astratto ma molto legato alla alle vicende reali, e questa linea di unità antifascista e al tempo stesso di protagonismo, di ruolo di primo piano, in prima fila della classe operaia, dei lavoratori e, delle, e dei loro partiti, questo mix sarà poi, diciamo, la formula, adesso sto molto semplificando, ma la formula alla base della politica che i comunisti italiani avranno anche nella resistenza antifascista. E anche qui troviamo Longo, e anche qui Longo ha un ruolo di primo piano. E questo ci aiuta anche a capire come la linea praticata dal PC durante la lotta di liberazione non è stata una linea improvvisata, è una linea che deriva da anni e anni di discussione, di elaborazione e di pratica politica, e quindi il partito arriva in qualche modo preparato a quella scadenza, con una rete organizzativa nel paese che comunque, sia pure con i numeri possibili, agendo in condizioni di clandestinità, aveva retto, con una certa chiarezza di prospettiva politica, e quindi non è un caso che poi sia Luigi Longo a stendere il documento fondativo della resistenza italiana, quindi il 30 agosto del 43, ben prima dell'8 settembre. Longo si rende conto che quando di lì a poco ci sarà l'armistizio e l'Italia non sarà più alleata della Germania nazista, queste truppe tedesche che sono già in particolare presenti nel nord del paese saranno delle truppe nemiche che non si faranno nessuno scrupolo, e quindi bisogna organizzare. Il documento si chiama proprio Promemoria urgente per la difesa armata antifascista del popolo italiano, è il documento fondativo in qualche modo della resistenza, e anche lì con lo stesso metodo Longo lo scrive, lo concorda assieme agli altri dirigenti comunisti che si ritrovano nella riunione in cui si ricostituisce la direzione del partito, ma il giorno dopo presenta questo testo subito alle altre forze antifasciste. E diciamo il modo di rendere la parola egemonia qualcosa di molto concreto, perché quelle forze antifasciste accettano quella impostazione, e questo dà il via all'organizzazione delle formazioni partigiane, delle brigate Garibaldi, anche quelle non di partito però con un ruolo egemone dei comunisti, e poi alle altre forze antifasciste, e poi al Corpo Volontari della Libertà, perché come diceva giustamente Cerquetti c'è molto presente in Longo la preoccupazione di non ripetere gli errori della Spagna, e quindi di evitare la frammentazione delle forze e di fare in modo che il Corpo Volontari della Libertà, che era il vertice della lotta partigiana, fosse realmente l'organismo diciamo centralizzato che dava le direttive, e quindi anziché avere un fenomeno di competizione tra le diverse brigate partigiane di diverso orientamento ci fosse una convergenza, una cooperazione. Longo, come aveva insistito in Spagna perché si arrivasse a un comando militare unificato, e ci arrivano dopo un anno di guerra civile, così insiste nella resistenza italiana perché il Corpo Volontario a Libertà abbia veramente le redini della lotta partigiana e vince questa battaglia, e assieme a Parri e Cadorna sarà alla testa del Corpo Volontari della Libertà. L'ultimo punto, e chiudo perché rendo conto che l'ho fatta troppo lunga, è quello della comunicazione, che veniva giustamente sottolineato da Luciana Lambra, di quello che all'epoca si chiamava la propaganda. Io credo, condivido l'osservazione che diciamo, l'attenzione di Longo a questo terreno è un'attenzione anche al di sopra della media dei dirigenti della sua generazione. Appunto, è fondatore di fogli e giornali che poi dovevano continuamente cambiare nome perché venivano posti nell'illegalità, venivano chiusi, e quindi dovevano cambiare nome. Poi altri giornali vengono fatti nella Francia dei fronti popolari, e soprattutto molti giornali e bollettini vengono fatti nella guerra di Spagna. In parte nascevano spontaneamente dai battaglioni, dalle brigate, dalle varie nazionalità, eccetera. Ma Longo, nel suo ruolo di commissario generale, ispettore generale delle brigate internazionali, cerca di dare un'organicità a questo lavoro, di sistematizzarlo. Insiste perché le brigate internazionali si dotino anche di una loro radio, e quindi abbiamo anche le trasmissioni radiofoniche, e fa in modo che siano raccolte foto e anche testi per avere un libro che parli delle brigate internazionali e faccia conoscere nel mondo quello che sta accadendo. E quando nella battaglia di Guadalajara si ritrovano su fronti contrapposti italiani che combattono con le brigate Garibaldi, con gli antifascisti, e italiani invece che combattono con i falangisti, con Franco, con le forze fasciste, prima di passare al combattimento vero e proprio, c'è un combattimento appunto fatto a suon di volantini, le file avversarie vengono bombardate di centinaia di volantini che vengono fatti arrivare in lingua italiana, e in cui si dice a questi italiani, molti dei quali anche ingannati o per bisogno erano andati a combattere nelle file franchiste, si cerca di far capire che stanno combattendo una causa sbagliata, che se passeranno dalla parte della Repubblica saranno trattati come fratelli, e in effetti alcuni accolsero questo appello. Ai volantini si aggiunsero poi i discorsi attraverso gli altoparlanti fatti da Longo, da Teresa Noce, da Giuliano Paietta, e poi quando alcuni di questi combattenti con i fascisti vengono presi prigionieri, anche loro parlano ai loro ex commilitoni e gli dicono: siamo stati presi dai rossi, ma questi rossi non sono così tremendi come erano stati dipinti, non ci hanno ucciso, non ci hanno torturato, al massimo ci hanno fatto un po' di formazione politica, e forse effettivamente questa è la parte giusta della barricata. Quindi una grande attenzione al tema, al terreno della propaganda, o come oggi diciamo della comunicazione, un aspetto di grande modernità di Longo, ma naturalmente era una comunicazione molto diversa da quella di oggi, in cui il contenuto politico era ampiamente prevalente rispetto alla formula o al messaggio. Queste cose messe insieme, io credo che e tante altre, ci danno un po' la dimensione, lo spessore di questo dirigente, che appunto è stato un dirigente, uno tra i massimi del Partito Comunista Italiano, un dirigente anche del Movimento Operaio Internazionale, perché è stato a Mosca a rappresentare il Partito Italiano, quando era nelle organizzazioni giovanili lo volevano a Mosca al vertice del KIM, dell'Internazionale Giovanile, invece Longo preferisce agire in Italia, e anche, come diceva il sindaco prima, un padre della Repubblica. E quindi in effetti il fatto che forse questi padri della Repubblica siano stati un po' dimenticati è un fatto negativo sicuramente, di cui avvertiamo anche alcune conseguenze. Quindi se anche attraverso l'attività delle fondazioni e di tanti ricercatori che stanno lavorando in questi anni su questi personaggi, su questi profili biografici, credo che ne uscirà uno anche su Teresa Noce, che è un personaggio di pari livello e di pari spessore di Longo. Credo che se si fa questo lavoro si potrà forse contribuire a riannodare un filo di continuità che è stato spezzato, con conseguenze che non sono molto positive. Però siccome la storia è un continuum e non finisce, la fine della storia che era stata decretata da qualcuno dopo l'89 era una baggianata, allora forse qualche speranza l'abbiamo ancora. Grazie davvero ad Alexander Rubel. Mi permetto di aggiungere, sono d'accordissimo sul fatto che la storia non è finita, ma che siamo in un periodo in cui ci sarebbe tantissimo bisogno di Luigi Longo e di personaggi di questo tipo, perché siamo davanti ad uno scontro dove persone che combattono per l'uguaglianza e per la libertà se ne vedono purtroppo abbastanza poche. Io prima di congedarci vi chiederei ancora un attimo di attenzione, chiederei ancora un attimo di attenzione, perché come ho accennato all'inizio, oltre agli ospiti che ci hanno accompagnato in questa bella presentazione, sono presenti in sala anche alcuni degli operai, dei compagni che parteciparono alla visita di Luigi Longo a Cinisello e che ci hanno anche aiutato per la promozione di questa iniziativa recuperando i materiali. Quindi il signor Giorgio Galletti, se vuole venire a darci una testimonianza, molto molto. è arrivato anche Enzo Nova, che anche lui è stato Enzo Nova in Austria. Ah, basta, forse c'è. Mi perdoni, io non ricordo il suo nome, anche Silvano Cavallotti. E anche Silvano Cavallotti, insomma, noi saremmo contenti se volete darci un racconto. E allora niente, Giorgio Galletti, lo ripeto per chi magari è arrivato a presentazione iniziata, era un membro del consiglio di fabbrica della rotografica di Cinisello Balsamo e appunto, è presente nelle foto che mentre lui parlerà vi farò rivedere. Sì, la storia della chiesa di Cinisello, la storia della rotografica italiana è fortemente intrecciata con Cinisello Balsamo, con l'attività politica, sociale e culturale di Cinisello Balsamo. Non è un caso che appunto da ciò la presenza di Luigi Longo avvenne nella nostra fabbrica. Ma intanto perché era fortemente politicizzata e non era solo una fabbrica che stampava giornali, ma era una fabbrica praticamente che costruiva anche dirigenti politici. E dopo dirò anche qualche nome. Poi nelle foto si possono anche vedere. Ecco. Luigi Longo venne da noi nell'aprile del 1978 e non è proprio un caso perché quelli erano gli anni di piombo, erano gli anni proprio pregnanti degli anni di piombo. La presenza di Luigi Longo nella nostra fabbrica fu fortemente voluta dalla cellula del PC che era in fabbrica, che c'era nella nostra fabbrica, dalla componente del sindacato, ovviamente CGL, CISL, UIL, e praticamente avvenne in un momento proprio particolare, perché qualche mese dopo vi fu, anzi, esattamente il mese prima vi fu il rapimento dell'onorevole Moro a Roma dalle Brigate Rosse. Lì potete vedere alcuni membri del consiglio di fabbrica di allora. Io sono andato là vicino in seconda fila alla testa di quel giovane che sbuca là, allora avevo più di capelli. E niente, praticamente questa presenza fu fortemente voluta, appunto, come dicevo prima, da persone, da compagni che furono appunto per un ruolo particolare anche nella città di Cinisello Balsamo, nella vostra città, anche se io non sono di Cinisello Balsamo, ma ci ho lavorato 30 anni in quella fabbrica, quindi parzialmente per un pezzetto mi considero anche di Cinisello Balsamo. Le persone che appunto presero quell'iniziativa, oltre ovviamente alle istituzioni rappresentate allora dal sindaco Cerquetti, erano Lanzani Giuseppe, che era assessore della giunta con la giunta di Cerquetti, c'era Narciso Boccari che era il segretario della cellula del PC della nostra fabbrica, e da Silvano Cavallotti, appunto là in fondo, rappresentava la CGL nella nostra azienda. E fatto, credo, non proprio così scontato, nelle altre foto che sono state mandate in precedenza era presente anche al completo la direzione della fabbrica, rappresentata dall'amministratore delegato dottor Federico Cherubini, dal direttore generale Giulia Cappelli e dall'assessore personale che era la signora Parricone. Quindi è stato un evento, e non è stato tra l'altro il solo evento che la rotografica ha promosso all'interno, diciamo, della fabbrica con un impegno sociale e politico, ed è stata una fabbrica che non ha ovviamente più stampato solo giornali, ma ha creato anche militanti politici di un certo livello. Grazie. Grazie davvero a Giorgio Galletti. Io lascerei anche spazio a qualche domanda o qualche intervento, però Emilio Zucca, le chiedo solo di essere di essere un po' brevi, più che altro perché la mostra dedicata a Berrettini chiude alle 19. Magari tanti di voi l'hanno già vista, quindi non vogliono tornarci, però visto che faceva parte del programma dell'iniziativa, se riusciamo a chiudere verso le 18.30 per un tempo modo chi vuole. Non l'ho vista e sono interessato a vedere. Domani. Perché chiude domani, non per l'altro. Non ho avuto questa capacità anche prima, diciamo, della nostra liberazione di avere rapporti con le forze socialiste, con le forze di giustizia e libertà, eccetera. E un momento di tensione con queste forze c'è quando viene firmato il patto tra l'Unione Sovietica e la Germania. Ecco, vorrei capire la posizione di Longo in quel momento rispetto ad esempio a Terracini e a Ravera, no? E le difficoltà che come riuscì a superare le difficoltà nel rapporto ad esempio con Nenni, con i prossimi azionisti, diciamo, perché chiedono di giustizia e libertà e gli azionisti, che invece avevano una posizione diversa da quella del PC sul patto, no? Questa è la prima domanda. La seconda riguarda invece una constatazione che un momento della grandezza politica di Longo è anche quando riesce a interpretare la famosa lettera del generale Alexander durante la resistenza, che praticamente le diceva i partigiani che erano in montagna, andate a casa e tornate alla primavera, no? Prima di affrontare l'inverno del 44-45. Infine, ma nel periodo successivo, però questo c'è un altro libro sempre più nel periodo della segreteria, diciamo, di Longo, se non ritiene che, cioè, la mia generazione è quella che è venuta la politica in quegli anni lì, nella seconda metà degli anni 60, io mi ricordo che una delle ragioni per cui, ad esempio, nel 69 mi iscrissi la FGC, una delle ragioni, fu anche quella del fatto che c'era il concilio, Vaticano II, no? Una svolta, diciamo, di Trento, e la segreteria di Longo ebbe una capacità di, adesso si direbbe, di accoglienza di quella popolazione cattolica, comunque entrò in una dialettica, così come poi alla fine della legislatura riuscì a varare con l'esperienza degli indipendenti di sinistra, no? Che riguardava padri ma anche cattolici, no? E riuscì quindi a fare in modo che dal centro-sinistra si potesse uscire in un modo più avanzato. Certamente rispetto al fatto che lui sviluppa anche le posizioni di politica internazionale, cioè per esempio Cina, di Alemania. Ma queste domande sono. Non so se vogliamo raccoglierne altre o rispondere. C'è qualcun altro che vuole? No. Sì, i rapporti con GAI sono abbastanza complessi. Partirei un attimo da lì per poi arrivare al patto Molotov-Ribbentrop, perché in realtà questi colloqui con Rosselli vengono avviati più o meno negli stessi mesi dell'inizio del dialogo con Nenni e con i socialisti, quindi già, diciamo, nel 34-35, poi in mezzo c'è la guerra di Spagna e poi dopo si cercherà di riprenderli dopo. E però mentre con i socialisti, con Nenni, l'intesa è quasi immediata, nonostante ci fosse stata la scissione di Livorno e polemiche anche abbastanza forti tra le due ali del movimento operaio, invece con Giustizia e Libertà, con Rosselli, a lungo il dialogo sembra un dialogo tra sordi, perché GL ha una posizione, ha un'idea della lotta antifascista che insiste molto sulle azioni esemplari, quindi il volo aereo che poi arriva in Italia, magari da lì il lancio di volantini, oppure anche ipotizzavano anche azioni, anche attentati, anche azioni di questo tipo. Quindi avevano una certa sfiducia nella capacità di mobilitazione, di ripresa del popolo italiano in senso antifascista, e ritenevano che alcune azioni esemplari avrebbero. E ovviamente la prospettiva di Longo dei comunisti era completamente diversa, volevano invece stringere i legami con le masse, con i lavoratori, anche quelli fascistizzati o anche quelli che credevano di essere fascisti perché magari erano in una fabbrica dove la presenza dell'organizzazione fascista era egemone, ma magari se ci andavi a parlare non è detto che lo fossero davvero. Quindi mantenere questo legame, agire nelle organizzazioni di massa del regime, cosa che Gielli assolutamente non voleva neanche sentire, e quindi diciamo con Gielli il dialogo si rivela difficile già nella fase dei fronti popolari, in cui invece con i socialisti le cose vanno bene. Chiaramente quando si arriva al patto Molotov-Ribbentrop, il dialogo, il colloquio tra le varie forze antifasciste diventa ancora più difficile. Dopo la guerra di Spagna, dopo